So, Sarah and Lorenzo are in a bar, and Lorenzo is about to order his late breakfast. Sì, ma prima le parole nuove e le espressioni nuove. Le ascolti e le ripeta dopo la seconda volta. Assaggiare. To taste, try. Assaggiare. Squisita. Delicious, feminine form. Squisita. Quanto? How much? Quanto? Zucchero. Sugar. Zucchero. Cucchiaini. Teaspoons. Cucchiaini. Dolce. Sweet. Dolce. Forte. Strong. Forte. Adesso ripassi le parole e le espressioni nuove e quando si sente sicuro, ascolti il dialogo. Signore? Due caffè e una brioche, per favore. Questa va bene? È con la crema? Sì, è con la crema. Allora no. Preferisco quella con la marmellata. Ecco a lei. Grazie. Vuole assaggiare? Sorry? Do you want to taste? Assaggiare? Well, yes, just a little piece. Grazie. Very nice. Sì, è squisita. Squisita. Delicious. Squisita indeed. Ecco i caffè. Grazie. Quanto zucchero? Sugar. How much? Only one, please. Tre cucchiaini per me. Mi piace molto dolce. It's strong. Ah, sì. Forte, ma squisito. Now we're going to follow Sarah and Lorenzo to the cash desk. Alla cassa. Where Lorenzo is going to pay. Usually you pay after you've had your food and drink, but in some very busy bars, customers are asked to pay in advance and to show the receipt to the bartender. When this is the case, you'll see a sign saying, Si prega di munirsi di scontrino. Please get the receipt. Lo scontrino. Listen and repeat. Lo scontrino. You should always get a receipt, in any shops, bars or restaurants, for anything you buy or eat and drink. Only market stalls are exempt. If you don't get a receipt, ask for one. Controls are rare but not impossible, and shopkeepers and also their customers can be fined for not having a receipt.